24 mattino. 17 minuti dopo le 8, ancora una volta la disciplina della scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare al centro di polemiche. Ne parleremo nel corso della trasmissione. E ancora l'unico nazista recluso in un carcere militare italiano, Misha Safer, che ha 85 anni, chiede di tornare in Canada, Vancouver, dove ha trascorso la sua esistenza dal dopoguerra fino all'estradizione in Italia, perché ha una dermatite. La procura militare però non ha accoglie la richiesta e Michael Seifert, lo ricordiamo, nel lager di Bolzano si divertiva a torturare fino alla morte giovani ebrei, comunisti, donne incinta, ed è stato condannato per 18 omicidi perpetrati senza che nessuno glieli richiedesse, proprio in quel carcere, proprio qui in Italia. Ci andremo tra poco, come andremo anche nell'asilo multietnico, guardato con diffidenza all'inizio, una scuola materna torinese che veniva quasi evitata proprio per l'alta percentuale di bambini stranieri. Invece è diventato un polo d'attrazione, un modello pedagogico, un punto d'eccellenza, e i genitori anche degli altri quartieri vogliono iscrivervi i figli. Andiamo ora a Soverato, dove ci aspetta il padre di Barbara Bellorofonte. Sappiamo non sono momenti facili, non è facile parlare pubblicamente di quello che gli è successo. Per questo lo ringrazio e lo ringrazio per la sua disponibilità. Buongiorno, signor Giuseppe Bellorofonte. Buongiorno. Dobbiamo parlare dell'assassino di sua figlia, e lei ha sentito anche poco fa nel nostro giornale radio lui, Luigi Campise, il fidanzato assassino, parlare e dire di essere pentito. È facile dire così, è facile. Doveva pensarci prima, non dopo. A essere pentito adesso non serve più, perché ormai ha tolto la vita una ragazza di 18 anni e mezzo, lui è libero e gira, e noi un giorno sì, un giorno no andiamo a trovarlo al cimitero. Non lo so se questo è giusto. Lui è libero e gira. E dunque, cosa è successo? Riassumiamo per chi non avesse seguito la vicenda. Insieme a Paolo Pollichieni, il direttore di Calabria Ora, il primo giornale che ha denunciato questa anomalia. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno Ieni. Perché è libero e gira Luigi Campise, che ha confessato l'omicidio della 17enne Barbara Bellorofonte, che ai tempi era legata sentimentalmente a lui, era la sua ragazza? Ha raccontato il padre: eravamo a cena nel 2007, è successo, hanno citofonato, mia figlia è scesa e questo ragazzo, 4 anni più di lei, già possessivo, che già la controllava, l'ha freddata proprio mentre la famiglia ancora era seduta al tavolo. Perché è libero, Paolo? Ma intanto non è libero per la presunzione di innocenza, quindi questo caso non può essere usato da scontro tra garantisti e giustizialisti. Noi abbiamo letto ieri un comunicato dell'Unione Camere Penali che proprio, insomma, vale il principio della presunzione di innocenza. In questo caso non vale niente, perché c'è una confessione piena e dettagliata da parte dell'assassino, e quindi voglio dire, lasciassero da parte questo aspetto. Il punto è se un delitto così grave, che ha anche dei rilievi sociali e ha anche delle implicazioni sulla personalità di chi lo commette, perché ripeto, non è un delitto d'impeto, è una persona che va, citofona, come hai detto bene, hai ricostruito molto bene, aspetta la donna che ha deciso di non avere più rapporti con lui e gli spara non uno ma 4 colpi, e poi questa ragazza muore dopo 20 giorni d'agonia. E l'assassino, ripeto, non è un delitto d'impeto, lo conferma anche dopo, se ne va a casa, si cambia, sistema le sue cose e va dai carabinieri a raccontare tutto. Spieghiamo allora, perché è stato scarcerato a questo punto. È stato scarcerato perché per una sommatoria di cavilli tecnici, tutti per l'amor di Dio ancorati benissimo, infatti il suo avvocato ripete è tutto in regola, perché alcune cose sono state fatte in un certo modo. Lui è stato scarcerato in buona sostanza perché il tribunale, perché le indagini che dovevano concludersi in un periodo di tempo che non doveva superare l'anno, e ripeto, siamo davanti a una persona che ha confessato il delitto, hanno sforato questo periodo. Il pubblico ministero ha chiesto una proroga, il GIP l'ha concessa, il tribunale del riesame al quale è stato fatto ricorso ha detto no, questa proroga non poteva essere concessa perché non c'erano le motivazioni per concederla. Cioè il pericolo di fuga. No, non solo, ma poi abbiamo, diciamo che in Calabria purtroppo non è più un episodio, io ne ricordo uno anche più grave, in cui trattandosi di un caso di uxoricidio si disse non c'è la possibilità di reiterare il reato, perché uno perché non può uccidere due mogli avendone una sola, insomma. Allora voglio dire, se ci nascondiamo dietro il cavillo giuridico, il sistema per scartellare c'è sempre. Paolo, torneremo tra poco sull'analisi, diciamo così, di questo fatto, anche perché sul banco degli imputati ora sono finiti i magistrati, in realtà è stato un organo collegiale, cioè il Tribunale del Riesame, il Tribunale della Libertà, a respingere il ricorso. Ma ricordiamo anche che è stato condannato in primo grado a 30 anni, Luigi Campise. Vorrei tornare da lei, Giuseppe Belloro Fonte. Io non so quali sono i motivi che hanno indotto la giustizia a liberare l'omicidio, ma io dico, ma è giusto questo? Ma da uomo, se è giusto tutto questo, io non lo so. Uno la mattina si alza, spara, ammazza e poi si trovano sempre le vie, i motivi per farlo uscire fuori, io non lo so. Lei come ha preso, signor Belloro Fonte, della scarcerazione dell'omicida? Questa notizia l'ho appresa non dai giornali, perché non si è saputo niente. Solo un giornale, Calabria Ora, che mi hanno detto che era uscito qualcosa su questo giornale, che lui era libero, però io non sapevo niente, sugli altri giornali non c'era niente. Quindi la gente mi diceva che era libero. Allora io cosa ho fatto? Mi sono informato dal mio avvocato, ho chiesto al mio avvocato, mi ha detto sì, è vero, purtroppo le leggi sono così, e basta, è fuori. Ma dovrà ritornare in carcere, questo è quello che mi ha detto. Io sono rimasto proprio, guarda, per la seconda volta mi è crollato il mondo addosso, guarda. Non posso girare perché abito a 4 km dal Soverato, girare e vedermelo davanti, non lo so, non mi sento. Lei pensa che tristezza. È una vista intollerabile e lei scrive, è inutile che vi dica che io e mia moglie abbiamo esaurito le lacrime, ma mi domando, a parte il caso di mia figlia, se è giusto far capire ai giovani che in Italia tutto è permesso. È giusto farlo capire ai giovani, perché non chiedere ai giovani cosa ne pensano di questa storia, chiedere a loro. Il messaggio che rischia di passare, e appunto abbiamo precisato, è chiaro che di fronte a iter giudiziari e ciò che ne scaturisce non bisogna semplicemente appellarsi alle emozioni, però questo caso è davvero sorprendente, non senza precedenti, ci diceva il direttore di Calabria Ora. Signora, io dico alla giustizia di fare i fatti, non le parole, perché si parla, dopo che si ammazza una persona si parla 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, poi non si parla più. E per questo che lei ha deciso di scrivere una lettera al Corriere della Sera? Sì, sì, io e mia moglie abbiamo deciso di scrivere questa lettera, perché non è possibile che è una continuazione. Uno fa quello che vuole, oggi fa quello che vuole, si alza, ammazza, poi si trova sempre la scappatoia per uscire fuori dal carcere. Sempre così. Quindi chi è che mi tutela? Ma nessuno. La legge. Ma è vero, ma in quale Italia viviamo? In quale Italia viviamo? Uno dovrebbe prendere, andarsene via da quest'Italia, andarsene in un altro Stato. Perché ne ho sentite troppe. Siamo stanchi. È una sentenza davvero sorprendente e che cozza, per usare un eufemismo, con il sentire comune. Ma non è senza precedenti. E infatti già è successo in passato che proprio per decorrenza dei termini sulla custodia cautelare fossero messi in libertà dei boss, dei killer, che poi va segnalato, tra l'altro, in molti casi sono rientrati. C'è anche il suggerimento oggi di Vittorio Grevi, massimo esperto di diritto penale, che dà un consiglio, suggerisce al pubblico ministero di ottenere il ripristino dal tribunale competente della custodia carceraria. Abbiamo cercato di contattare la rappresentante Alessia Miele della Procura di Catanzaro, ma non sono stata autorizzata a parlare, ci ha detto. Tra pochissimo sentiremo anche il ministro alla giustizia, Angelino Alfano, che addirittura ha inviato gli ispettori per capire, per fare chiarezza cosa sia successo in questo caso assoverato. A volte l'ossequio formale della legge contrasta fortemente con il senso profondo di giustizia che ciascuno di noi si porta dentro. Quando la legge contrasta con il sentimento di giustizia, qualcosa non va. Verificheremo con gli ispettori se la legge è stata rispettata e se l'ossequio formale alla legge vi è stato, probabilmente occorrerà fare una valutazione, una riflessione approfondita sulla correttezza della legge. Giuseppe Bellorofonte ha sentito anche il ministro, a questo punto si è pronunciato sul caso che riguarda sua figlia. Vediamo più in là cosa succederà. Il pentimento del fidanzato assassino non ha scalfito la famiglia della vittima, che in questo caso, l'ha precisato più volte, sta cercando giustizia. E tra poco torneremo insieme con le conclusioni. Giuseppe, intanto la ringraziamo a nome di tutta la redazione di Radio 24 per questa sua disponibilità. Grazie a lei. Grazie. E cerchiamo dunque di capire cosa sia successo. Paolo Pollicchieni, direttore di Calabria Ora, abbiamo sentito le dichiarazioni del ministro Angelino Alfano al TG5, che è intervenuto dopo questa lettera del papà sul Corriere della Sera. Eppure la vicenda non era nuova, era stata pubblicata da voi. Ma era stata pubblicata 15 giorni fa e qui già c'è da fare una riflessione sul fatto che purtroppo la sensibilità dei media e quella anche delle istituzioni non è un granché, visto che fino a quando il padre di Barbara non ha spedito la lettera al Corriere della Sera, il Corriere ha scelto di metterla in prima pagina, tutti hanno fatto finta di niente. Anche questa cosa è singolare, che il Ministro della Giustizia debba capire cosa succede all'interno della sua amministrazione leggendo i giornali, non mi pare la cosa, perché vedi, adesso una scarcerazione ci può stare, i tempi, i fascicoli, le leggi, le norme, ma qui quello che la gente non capirà mai è che siamo davanti a una persona che è rea confessa, cioè non c'è la complessità delle indagini, della ricerca della prova, non c'è niente di tutto questo. In un paese normale, e c'era tutto il tempo per fare il processo di primo grado, ma anche quello d'appello. Cioè, voglio dire, questo è poi un altro dettaglio. Attenzione, lui è rimasto in carcere fino al 1 agosto, quando poi è stato scarcerato, fine luglio, quando è stato scarcerato, ma non per l'omicidio. E anche questo va precisato a chi non conoscesse i dettagli della vicenda. Se non fosse stato, questa è la cosa grave, era già libero da tempo. Quindi la ragione per cui Luigi Campise era in carcere era perché aveva avuto una condanna definitiva, ripeto definitiva, per estorsione ed usura. E allora se tutti si crogiolavano sul fatto che doveva stare in carcere per 4 anni e nessuno calcolava che non erano 4, erano di meno, perché c'era l'indulto. L'indulto e gli sconti di pena per buona condotta, insomma, tutta una serie di questioni tecniche. Allora, voglio dire, tutto questo, no? Io capisco che siamo in un, e qui è l'altro rischio, siamo in una zona ad alta densità mafiosa, per cui ormai si parla di procure ordinarie come se fossero una cosa secondaria, ma è esattamente il contrario. Proprio qui lo Stato e la legge dello Stato deve essere amministrata con più oculatezza, perché proprio qui bisogna far capire che la giustizia l'amministra lo Stato e non l'antistato. In fondo quello che ci butta in faccia il padre di Barbara, creandoci un grosso imbarazzo, perché nessuno di noi si può chiamare fuori, ripeto, nemmeno il mondo dell'informazione, e io chiedo giustizia. Alla fine sono una persona che aveva una figlia in casa e che stava cenando con lei e che improvvisamente qualcuno ha stabilito che tutto questo non andava più bene. Cioè, questo è, insomma, e se ne va allegramente a spasso per le vie del paese sovrano. La risposta formalista, vedremo se, se va bene alla legge, mi sembra una canzone di André. Prima cambiano il giudice e subito dopo la legge. Non funzionerebbe così in un paese civile, dai. Ma sul banco degli imputati ora finiscono i giudici? Ma finiscono i giudici sul banco degli imputati. E una, ripeto, adesso qui sarà una cosa molto complicata, perché sono due giudizi messi insieme. Perché, ripeto, Bellorofonte, l'assassino della Bellorofonte, della ragazza, non era in carcere allo Stato perché per quello erano già decorsi i termini e il Tribunale del Riesame aveva detto che era sufficiente la firma che lui doveva apporre ogni giorno, non doveva lasciare il paese, eccetera. Quindi adesso dire da parte dell'amministrazione della giustizia che la vicenda è stata scoperta ora, dire una sciocchezza, dire una cosa non vera. Va precisato però appunto che questa scarcerazione è stata resa possibile anche per un pronunciamento del Tribunale del Riesame della Libertà. Sì, però lì si andrà a fare un calcolo da ragioniere. Perché praticamente loro diranno, il Tribunale del Riesame immagino che dirà: ma scusate, la legge dice che voi avete un anno di tempo per concludere le indagini, a meno che non si tratta di indagini complesse. Siccome qui avevate un reo confesso, io non ho potuto sostenere che erano indagini complesse, per cui non ho potuto allungare questo termine perentorio che la legge dava. E allora si tornerà ai pubblici ministeri, perché i pubblici gioco di responsabilità e poi anche di verità oggettive. Per esempio, l'avvocato della famiglia Bellorofonte, l'avvocato si chiama Enzo De Caro, ha denunciato che le perizie iniziali sono state consegnate all'accusa con 8 mesi di ritardo. Questo naturalmente ha contribuito a far aumentare il ritardo e la decorrenza dei termini. Ripeto, qui nessuno è scappato truccando le carte. Una persona è stata scarcerata perché ha avuto un ottimo avvocato, le cui iniziative legittimissime evidentemente non sono state adeguatamente contrastate. Paolo, intanto grazie naturalmente per aver portato alla luce un fatto che meritava il risalto che ha avuto su Calabria Ora, seguito poi dalla pubblicazione, lo ricordiamo, di Giuseppe Bellorofonte, il padre della ragazza uccisa, dell'invio e poi la pubblicazione sul Corriere della Sera di una lettera in cui il messaggio è chiaro. Certo, è giusto che ad essere tutelato nei diritti sia solo un assassino che con fredda premeditazione viene sotto casa, mi uccide una figlia e dopo solo 2 anni e mezzo, nonostante una condanna a 30 anni, esce di galera e se ne va allegramente a spasso per le vie del paese, chiede. Ignoro i motivi che hanno indotto la giustizia italiana a liberare l'omicida, ma quello che mi chiedo da cittadino, da uomo, se è giusto tutto questo. Grazie a Paolo Pollichieni, direttore di Calabria Ora, per questa analisi. Grazie, buona giornata e buon lavoro. E a questo punto i fatti in primo piano. Sindacati e Confindustria confermano il loro no alle gabbie salariali. L'ipotesi rilanciata dal premier Berlusconi di differenziare i salari per macro aree regionali. Altre notizie che sentirete nei notiziari. Prima di andare in vacanza in Sardegna, Silvio Berlusconi ha annunciato le priorità del governo al ritorno dalla pausa estiva: la ricostruzione in Abruzzo, il rilancio del Mezzogiorno, l'apertura dei cantieri per le opere infrastrutturali, la sicurezza e la riforma della giustizia penale. Si torna dunque ancora una volta a un aggancio con quanto accaduto. In Afghanistan la Russia chiede nuove regole, più di guerra che di pace, di fronte a una situazione sul terreno sempre più pericolosa, servono nuove regole d'ingaggio per i militari impegnati in Afghanistan e nelle missioni internazionali, un nuovo codice militare che in sostanza somigli a un codice di guerra più che di pace. Questo quanto richiesto dal ministro della difesa Ignazio La Russa in un'intervista al Corriere della Sera. Noi torniamo a parlare di giustizia, giustizia che tiene banco nell'informazione oggi, per aprire una pagina completamente diversa. In questo caso non è stata accolta la richiesta di un assassino particolare. È il boia di Bolzano, si chiama Misha Seifert, è in ottima salute, però ha 85 anni e a questo punto sembra morirà in carcere. Il boia del lager di Bolzano è l'ultimo nazista condannato all'ergastolo. Diciamo che è l'unico che sta scontando la sentenza in un carcere italiano. E per raccontarvi cosa è successo e soprattutto chi era questo boia di Bolzano, abbiamo scomodato il responsabile dell'ANPI, il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani della città di Bolzano, dove il ricordo di Seifert è ancora molto vivo. Buongiorno, benvenuto in trasmissione a Lionello Bertoldi. Buongiorno a lei, signore, buongiorno agli ascoltatori. Chi era Misha Seifert? Chi è? Chi è? Noi auguriamo lunga vita a Misha Seifert, detenuto nel carcere militare di Santa Maria di Capua Vetere, perché con una lunga vita può ancora pensare ai misfatti che ha compiuto all'interno del Durchgangslager Gries, il lager di Bolzano, dove con le sue mani ricordano che ha ucciso 18 persone. È stato condannato solo per 11 omicidi provati con testimoni e prove, e per questo è stato condannato all'ergastolo, solo per 11 omicidi compiuti col suo socio complice Otto Sain all'interno delle celle scomparso nel campo di concentramento di Bolzano. Che ne è del suo complice? Il suo complice è Uccel Di Bosco. Crediamo il giudice Costantini del Tribunale Militare di Verona, che l'ha rincorso con la sua ricerca, non è riuscito a raggiungerlo, ma sembra che sia ancora vivo sotto falso nome, e sembra che, contrariamente a quello che abbiamo sempre pensato, che fossero due giovani ucraini, perché sono del 1924 ambedue, e nel 44 avevano solo 20 anni, che questo giovane Otto Sain sia invece un polacco, però è irraggiungibile, è introvabile. Invece Misha Seifert, diamo alcuni elementi, ha vissuto dal 1951 a Vancouver in Canada e non ha dovuto nemmeno sobbarcarsi l'onere di cambiare l'identità, era registrato perfino sull'elenco del telefono nella sua casa di Vancouver in Canada, dove svolgeva un'ordinaria vita con tanto di moglie, figlio e presenza alla messa ogni domenica, una vita da operaio, diciamo così, insomma, aveva un lavoro umile, era inserito nella propria comunità, viene scomodato dai giudici italiani, dai giudici del Tribunale Militare di Verona, che lo condannano in contumacia, perché lui non si presenta a Verona, con tanto di testimonianze di persone che in quel lager sono passate. In quel lager a Bolzano è passato anche Mike Bongiorno, che ha ricordato come è stato frustrato personalmente da Misha Seifert, che lo chiamava americano bastardo. Mike Bongiorno è sopravvissuto, tanti no. Quanti sono morti in quel lager a Bolzano, Lionello Bertoldi? Guardi, dal lager sono passati, adesso lo sappiamo, 9.500 persone, donne, uomini, bambini. I morti non sappiamo con esattezza quanti siano i morti, ma sono, qualcuno parla di 300 morti, qualcuno ne nomina 66. Quello che sappiamo è che già Misha Seifert ne ha sulla coscienza ben 11, conclamate da una sentenza. Altri 23 sono stati fucilati all'alba del 12 settembre 1944 nella caserma Mignone. Furono portati via seminudi dal blocco D del lager, portati alla caserma Mignone, denudati dalla parte soprastante, condotti all'interno delle cellette dei cavalli e lì uccisi con un colpo di pistola alla nuca. Fu molto operativo anche in quell'occasione Misha Seifert. E si divertiva a torturare con un altro amico e complice aguzzino fino alla morte donne incinta, giovani infilando loro le dita negli occhi, insomma, dell'orrore nazista, massacrare a calci e pugni, cioè nessuno gli ordinava naturalmente di portare questi detenuti nella celletta nera, come è stata ricordata anche dai testimoni, ma era una sorta di rituale che questo giovane compiva e sembra traendone anche grande piacere, grande godimento. Ora, ha chiesto di tornare in Canada, a Vancouver, dopo anni di battaglia, insomma, per essere stradato finalmente nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, e gli è stato detto no, perché ne parleremo tra pochissimo, anche grazie a una testimone della sofferenza delle famiglie delle vittime. Infatti è con noi Gabriella Riva, che saluto. Buongiorno, professoressa. Buongiorno. Gabriella Riva di Costa Volpino è la nipote di Bortolo Pezzuti, fondatrice del comitato Bortolo Pezzuti, un giovane di 18 anni ucciso a mani nude da Misha Seifert. Ancora buongiorno da Irene Zerbini. Il pontefice qualche giorno fa parlò proprio dei lager, sono uno squarcio di inferno che si apre sulla terra. Parlò Benedetto XVI contro il male estremo dei lager nazisti e sembrava evocare così figure e scene a noi lontane, che quasi riguardano un popolo, che nulla hanno a che fare con noi. Invece la cronaca ci ricorda che anche in Italia esistevano lager di questo tipo, addirittura a Bolzano, come avete sentito, il lager è stato il punto di fine in cui sono stati freddati dei prigionieri, in cui sono stati torturati e massacrati fino alla morte, senza che poi gli italiani se ne possano lavare le mani. E c'è una poesia incredibile che forse racconta più di tutte quelle pagine che sono state scritte sulle vicende naziste. È stata scritta da Egidio Meneghetti. Meneghetti è diventato un rettore dell'Ateneo di Padova nel dopoguerra, ma è stato a lungo in quel carcere a Bolzano. E scrisse una poesia in dialetto veneto struggente. Parlava di questi ucraini, Missa e Otto, e del tormento de tutti che va a Drio. Io mi scuso per la pronuncia veneta non certo accurata, ma parlava delle mani di Missa, che sembravano vivessero per loro conto a 20 anni quest'uomo, eppure queste mani che incutono il terrore. E parlava anche di questo giovane ucciso a botte, torturato per giorni, e che muore davanti agli occhi degli altri detenuti invocando la sua mamma. Questo giovane è Bortolo Pezzuti e con noi oggi è la nipote di Bortolo Pezzuti, la professoressa Gabriella Riva. Com'è finito quello che forse lei non ha mai conosciuto, ma che sarebbe stato suo zio nel carcere e nel lager di Bolzano, professoressa Riva? Ecco, innanzitutto bisogna precisare, scusi se posso, certo, i motivi per i quali mio zio è stato portato in questo lager. Cioè, mio zio era un ragazzetto di 18 anni, molto semplice, modesto, che contribuiva al sostentamento della famiglia come manovale, e nella vigilia di Natale del 44 si era permesso il lusso con i suoi risparmi di andare al cinema, solo che aveva al collo un fazzoletto con delle colorazioni rosse, per cui è stato per questo lui si è rifiutato all'intimazione dei militi dell'attagliamento di togliersi quel fazzoletto, lui si è rifiutato chiedendo spiegazioni, è stato portato nel lager e gli è stato applicato il triangolo rosso come individuo politicamente pericoloso. E lì nella vigilia, tra l'altro, da sottolineare anche la combinazione delle date, vigilia di Natale viene arrestato a Lovere e la vigilia di Pasqua muore dopo 3 giorni di torture nella camera nera effettuate da questo criminale, che si metteva i guanti di pelle nera per effettuare queste torture. Dopo 3 giorni di tortura, la vigilia di Pasqua, mentre gli altri carcerati avevano ottenuto il permesso di avere un religioso che celebrasse la messa per questa ricorrenza, mio zio, tra urla estreme, moriva e gli veniva squartato il ventre. Per finirlo, questo Seifer gli ha squartato il ventre, e così, tra urla e tormenti, 3 giorni ha fatto fine alla sua vita. di ragazzo di 18 anni. Scrive in questa poesia che ha immortalato questo momento: tre giorni la chiamato, la sua mamma, ha chiamato la mamma in mezzo a questi tormenti. E naturalmente voi avete aspettato giustizia insieme ad altre famiglie per decenni. Quando avete saputo finalmente dell'estradizione di Michael Safer dal Canada, dove viveva indisturbato dal 1951, all'Italia, cosa avete provato? Ma abbiamo provato un senso di tranquillità, perché finalmente giustizia era stata fatta. Per cui anche adesso che vengano soddisfatte le richieste di un criminale, cioè meno male che non sono state soddisfatte, ma neanche dovevano essere ascoltate le richieste di un criminale di avere gli arresti domiciliari, perché lui dice ho l'eczema, ho un problema alla pelle e quindi è meglio che torni in Canada, insomma, dove mi potrò curare, stare a casa. E io ho anche 85 anni e non godo di buona salute. Deve essere giustizia, non deve essere vendetta. Cosa risponde Lionello Bertoldi, responsabile dell'AMPI? Ma guardi, un desiderio di giustizia è un desiderio molto umano. Non ha niente a che spartire con odio o con rivalsa. Rimane un sentimento umano che vuole solo quella giustizia per uomini liberi che la resistenza e il sacrificio di quegli uomini della deportazione hanno dato al nostro paese. E questo desiderio di giustizia si affida alla giustizia, e quindi se la giustizia italiana deciderà che Michael Safer ha bisogno di cure, le farà quelle cure, ma rimarrà in Italia, perché è diversa la questione di essere assicurato alla giustizia con tutti i benefici e anche le cure che questa giustizia gli può dare, diversa la pretesa di Safer di essere ricondotto in Canada, nel paese da dove è stato estradato. No, anche se è un vegliardo, perché ha 85 anni, dovrà rimanere nel nostro paese, dove ha compiuto i suoi misfatti, affidato alla giustizia italiana. Sarà questa giustizia umana per uomini liberi che lo collocherà nel luogo e nella situazione dove possa sopravvivere al più lungo possibile. Per quella fiducia democratica, noi abbiamo fiducia nella giustizia, è una fiducia democratica che un uomo possa col tempo, tanto tempo, pensare anche a redimersi. È con questo spirito che ho consolato quelli che mi hanno telefonato ieri, perché ieri ho ricevuto telefonate da perseguitati da Safer, ho sentito al telefono Marisa Scala di Torino, ho sentito Giuseppe Boni e Monello da Parma, e ho detto la giustizia, noi abbiamo affidato Michael Safer alla giustizia italiana, quella giustizia garantirà la sopravvivenza al più lungo possibile di Michael Safer, perché possa pensarci. Senta, Lionello Bertoldi, va precisato che il Tribunale Militare di Sorveglianza, presieduto in questo caso dal giudice Pierpaolo Rivello, ha disposto la perizia medico-legale e le conclusioni sono state: ha 10 decimi di vista, è capace di intendere e volere e non è affetto da alcuna patologia grave. Su questa base è stata negata la richiesta di tornare in Canada. Grazie naturalmente al responsabile dell'AMPI di Bolzano, Lionello Bertoldi, grazie alla professoressa Gabriella Riva, fondatrice del Comitato Bortolo Pezzutti, il giovanissimo accusato di essere un nemico politico torturato per tre giorni da Michael Seifert. Va ricordato che dei crimini orrendi di cui si è macchiato Seifert non si è mai pentito. Cambiamo pagina completamente per far tappa a Torino, un altro punto di questo paese in cui avvengono anche cose che fanno riflettere sul futuro e avvengono cambiamenti, perché la storia di un cambiamento di mentalità, quella che stiamo per raccontarvi, un asilo multietnico, definiamolo così, che è diventato alla moda. Attenzione però, era partito come l'asilo da cui togliere i propri bambini. Ricordate San Salvario, quel quartiere di Torino dove scesero in piazza addirittura gli abitanti contro i bastardi immigrati, proprio così si esprimevano nei cortei, armati di spranghe, volevano cacciarli. Ebbene, in un asilo, in quel quartiere, a poca distanza, c'era una percentuale eccessiva di bambini stranieri, erano il 60%, si rischiava di perdere l'identità italiana e quindi i genitori di Torino non volevano i figli iscritti. diritti. Ce l'ha ricordato in un bellissimo articolo Emanuela Minucci della Stampa, che cito per dovere di correttezza, e l'asilo multietnico ora invece ha un boom di richieste anche da bambini e da famiglie degli altri quartieri. Ce lo racconta la direttrice di questa scuola per l'infanzia, si chiama Bei di Torino, e ringraziamo la direttrice per il suo tempo e per l'ottimo lavoro svolto. Benvenuta Marika Marcellino, buongiorno professoressa. Buongiorno, buongiorno. Beh, una grande soddisfazione dopo anni di lotte anche per sopravvivere, visto che toglievano i figli da quell'asilo. Sì, soprattutto perché era importante per la scuola conservare un bel numero di genitori italiani, no? Evitare che la scuola diventasse una sorta di ghetto, e grazie al fatto che il gruppo di insegnanti che c'era allora aveva molto voglia di investire il proprio impegno nella scuola e non voleva vedere la scuola appunto diventare un po' di serie B, c'è stato un grande sforzo per cercare di conservare l'utenza italiana. Mi ricordo che allora si parlava di numero chiuso, no? Senza poi arrivare mai naturalmente a orientarsi in quella direzione. Il ragionamento che era stato fatto allora in accordo con il Comune di Torino, con il settore educativo del Comune, è stato quello di puntare sulla qualità della scuola in modo da incentivare i genitori italiani a restare nel quartiere. E quindi voi ne avete fatto diventare quella che veniva vissuta così da menti un po' chiuse, sì, come una pecca, una ricchezza. Cioè una ricchezza per i nostri figli, per i bambini, avere il contatto continuo con la diversità. Innanzitutto apre la mente, espone esperienze, culture nuove, apre al confronto, addirittura espone a lingue nuove, e facciamolo diventare una gemma di cui vantarsi. Avete puntato su una didattica diversa. Vanno compresi i genitori italiani, perché non è tanto una questione di razzismo. Forse in alcuni di loro c'è stato sicuramente il sentimento di non voler mescolare i propri figli con bambini di una razza tra virgolette inferiore, no? Però è chiaro che il genitore italiano, secondo lei, questa è una minoranza, la minoranza era apertamente razzista, lei ritiene? No, secondo me molti genitori più che altro non volevano mandare i figli in una scuola segnata da difficoltà e da ritardi, no? E quindi proprio perché le scuole che sono frequentate da un alto numero di stranieri sono vissute come scuole che inseguono la difficoltà. Invece bisognava un po' convincerli della cosa contraria, che se i bambini vanno in una scuola dove sono presenti molte esperienze di vita e molte culture, è sicuramente un modo importante per prepararsi ad un cambiamento storico che è molto importante. Ma come, no? Cosa avviene nel vostro asilo? Qual è la differenza tra il vostro asilo e un asilo, diciamo così, ordinario? Come ce lo può descrivere? No. Ma tutte le scuole dell'infanzia del comune lavorano molto bene in questo senso, c'è una grossa tradizione torinese. Noi abbiamo avuto un gruppo particolarmente valido di insegnanti e come dire, l'investimento del comune sia nella parte politica che tecnica dell'assessorato al sistema educativo, e soprattutto c'è stata questa si sono individuati dei filoni importanti, cioè da un lato aggregare i genitori e dare loro il più possibile un senso di comunità, no? Senza particolare buonismi, senza diciamo enfatizzare, come dire, degli aspetti più ideologici di questa cosa. Dall'altro lato anche come dire, incentivare un progetto culturale oltre che educativo, e c'è stata l'apertura della scuola al territorio, la collaborazione con una serie di enti esterni, tra cui alcuni molto importanti come per esempio il Castello di Rivoli, che è un museo di arte contemporanea che è di importanza non solo nazionale e ma che utilizza l'arte come mezzo di comunicazione universale. Esatto. Abbiamo poco tempo a disposizione, direttrice, voglio solo chiederle quanto è lunga la sua lista d'attesa. Dunque, noi siamo anche una scuola piccola con 75 posti in un quartiere molto abitato, e la nostra percentuale è rimasta sul 50% tra gli anni stranieri come media, proprio perché, ripeto, c'è stato questo grosso lavoro. Quanti genitori ha in lista d'attesa? Dunque, noi avevamo 26-27 posti disponibili, avevamo più di 100 domande, di grazie, cui una buona parte. Grazie, questo sintetizza tutto. Grazie alla direttrice della scuola per l'infanzia Bei di Torino, Marika Marcellino. Tra poco, nella versione di Oscar, parleremo di sinistra e inchiesta in Puglia, del rapporto con la magistratura, del rapporto con la questione morale, queste le tematiche che tratterà tra pochissimo Oscar Giannino. Si conclude invece qui 24 Mattino, ritorneremo come sempre insieme dalle 7:15 di domani. Buona giornata da Irene Zerbini.